Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare dalle 7.30 sino alle 10, il sabato, la domenica dalle 8.30 sino alle 11, il buongiorno di Radio 24 nel weekend, i nostri contatti, Si può fare trattino Radio 24 su Facebook, il nostro account su Twitter se volete chiacchierare, interagire con noi è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Cominciamo come sempre ogni mattina, prima di dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali, con una buona notizia. And now the good news. L'iniezione di ottimismo questa volta ci viene da Padova, dove la Fischer, il colosso tedesco dei sistemi di fissaggio, annuncia: investiamo in Italia e assumiamo nuovo personale. Proprio nel periodo nel quale molte aziende straniere se ne vanno o rinunciano ad investire in Italia, la Fischer dice che sposterà una parte della logistica dalla Germania e da altri paesi in Italia. Quindi oltre ai 309 dipendenti che ci sono già a Padova, ce ne saranno sicuramente di più, quindi nuove assunzioni annunciate a Padova dal gruppo Fischer. Per una volta una buona notizia. Oh, ma naturalmente è difficile trovare traccia di queste cose qua sui giornali, almeno sulle prime pagine dei giornali. Qualcosa si trova all'interno, ogni tanto bisogna scavare tra le notizie di politica o in nulla di fatto, sempre che vengono dalla politica e da tanti altri argomenti che caratterizzano un po' la situazione italiana. La prima pagina del Corriere, il titolo principale riguarda l'assalto alla legge di stabilità, perché dai due principali partiti della maggioranza sono in arrivo 1200 emendamenti e spunta anche il prelievo sulle pensioni, sugli assegni più alti. Letta garantisce niente seconda rata dell'IMU, l'offensiva del PD appunto sulle pensioni. Leggiamo: il premier Letta annuncia non si pagherà la seconda rata dell'IMU, ma è assalto dei due principali partiti di maggioranza alla legge di stabilità, presentati 1200 emendamenti. Vedremo più avanti qualche dettaglio su questo. C'è spazio anche per le parole del Papa sulla prima pagina del Corriere. I devoti della Dea Tangente rubano ogni anno 60 miliardi al paese. La denuncia del Papa sulla corruzione che ci frena. Leggiamo velocemente. Gian Antonio Stella: meno male che Papa Francesco c'è, scrive Pino, guadagnandosi il primo posto tra i commenti più votati del Corriere.it. meno male, sì, perché la lotta ai devoti della Dea Tangente, come li chiama il Papa, non pare in cima ai pensieri del mondo politico. Nonostante i corrotti rubino al paese, dice la Corte dei Conti, almeno 60 miliardi di euro l'anno, 12 volte l'IMU sulla prima casa. Questa è la premessa per arrivare a dire che non è la prima volta che Jorge Maria Bergoglio va giù duro sulle bustarelle. Quando era a Buenos Aires si scagliò contro il fenomeno con parole di fuoco. La sintesi è questa: il peccato si perdona, la corruzione invece non può essere perdonata. Di più, ha detto il Papa, la corruzione puzza, odora di putrefazione. E anche qua magari vedremo qualche parola in più di quelle del Papa più avanti. Sempre sulla prima pagina del Corriere: arrestato il sindaco del Sole leghista, favorì gli amici. Siamo ad Adro e il sindaco sceriffo è Simone Lencini. Il sindaco sceriffo di Adro finora era noto per il Sole delle Alpi, riprodotto un po' ovunque nella scuola padana del suo paese. Ricordate la vicenda del Sole delle Alpi, il simbolo che poi il ministro dell'istruzione all'epoca era la Gelmini, fece togliere perché non aveva senso, perché era un simbolo politico. Ebbene, il sindaco di Adro torna alla ribalta agli arresti domiciliari con l'accusa di aver incarnato un sistema di potere disinvolto, a tratti sfrontato, che favorisce gli amici negli appalti. Con lui cade nella polvere, scrive il Corriere, la stagione dei padroni di casa nostra, dei sindaci per cui la legge è solo un impaccio. Sempre dal Corriere leggiamo una cosa milanese: i 100 commercianti contro la Super Ikea Milano e i piccoli che dicono non fateci chiudere. La notizia è questa, scrive Dario Di Vico. C'è una protesta dei commercianti della zona di Legnano perché si annuncia l'apertura di un nuovo centro commerciale dell'Ikea, 70.000 metri quadrati, di cui 22.000 destinati ad ospitare mobili e arredamenti, altri 50.000 finalizzati a realizzare una galleria che offrirà differenti merceologie. Però i negozianti denunciano un'overdose di centri commerciali. Leggiamo brevemente: la contestazione dei progetti svedesi è iniziata ieri con un'assemblea di un centinaio di commercianti con alcuni sindaci della zona di Legnano. Oltre ai danni che il centro IKEA provocherebbe per il tessuto dei dettaglianti costretti a chiudere i battenti, nel corso dell'assemblea è stato denunciato un consumo di suolo di ulteriori 280.000 metri quadrati. La questione che riguarda l'occupazione è questa: la Confcommercio contesta i dati sull'occupazione secondo il suo ufficio studi per 840 nuovi posti di lavoro creati con l'insediamento IKEA, se ne distruggerebbero 1.085 nelle piccole imprese della zona e quindi il saldo sarebbe negativo. Non lo so se il saldo sarebbe negativo, questo lo dicono, lo denunciano i commercianti, alcuni sindaci della zona spaventati da questo nuovo insediamento. Però quando si annunciano nuovi posti di lavoro e l'apertura di un grosso centro commerciale, l'IKEA fino ad ora è sempre funzionata piuttosto bene, è difficile poi mettersi contro. Ma questo è il crinale sul quale, vedete, in questo momento si discute a proposito di lavoro, occupazione e anche il tipo di lavoro e di occupazione che si riesce a dare in Italia. Andiamo sulla prima pagina invece di Repubblica, dove c'è una notizia che il Corriere ignora completamente: Berlusconi, il giallo della grazia dell'Utri. In TV, lo sapete, avete sentito il giornale radio, è stata chiesta dai cinque figli la grazia, ma il Quirinale dice non risulta, neanche l'avvocato Ghedini conferma. Marcello dell'Utri, leggiamo, ha dichiarato ieri sera a Nicola Porro del giornale nel corso della trasmissione di Rai 2 Virus che tutti e cinque i figli di Silvio Berlusconi in modo compatto hanno chiesto la grazia al Quirinale per il padre condannato in Cassazione a 4 anni nel processo Mediaset, ma l'ex senatore del PDL è stato smentito sia dall'avvocato del Cavaliere Ghedini, mai presentato la domanda né lo faremo in futuro, sia dalla Presidenza della Repubblica. Al Quirinale non è arrivato nulla e sono due smentite diverse, perché Ghedini dice non abbiamo presentato nulla, ma Ghedini forse parla come avvocato di Berlusconi. Qui si dice che sarebbero stati i figli a chiedere la grazia, ma la più importante smentita è quella del Quirinale, che dice no, guardate, non c'è nessuna grazia. Quindi dell'Utri, che è un amico strettissimo di Berlusconi, non si capisce perché abbia fatto queste dichiarazioni. Si ha delle notizie in più del Quirinale, cioè se la grazia potrebbe essere ancora in viaggio da Arcore fino al Quirinale, oppure se è una panzana per, così, per discutere di questo argomento. Sulla prima di Repubblica troviamo anche la notizia economica: manovra, il PDL vuole il condono, Letta, niente seconda rata dell'IMU. C'è anche spazio per una polemica tra Grillo e il PD. Proposta del Movimento 5 Stelle, 600 euro al mese per 9 milioni di persone. Reddito minimo di cittadinanza, ma il viceministro Fassina contesta Grillo e dice è una super balla, perché secondo Fassina questa, il reddito di cittadinanza costerebbe 30 miliardi di euro l'anno e le coperture indicate da Grillo sulle pensioni d'oro e i risparmi con l'IMU, facendo pagare l'IMU alla Chiesa, garantirebbero solo 4 miliardi di euro l'anno. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore un approfondimento per quanto riguarda le notizie economiche: Letta, non si paga la seconda rata IMU, coperture difficili ma nessun dissidio con Saccomanni. Equitalia, spunta la chiusura delle cartelle senza sanzioni, negli emendamenti anche il concordato prevertivo. Tra gli emendamenti alla legge di stabilità spunta la chiusura delle cartelle di Equitalia, scrive il Sole 24 Ore, senza pagare sanzioni e interesse. E sulla stessa scia c'è anche chi in area PDL sarebbe pronto a rilanciare con forza il concordato preventivo triennale, obiettivo recuperare una nuova dote per raddoppiare le risorse per il taglio del cuneo fiscale. Si può fare. Vorrei sapere per quale motivo a Salerno la differenziata funziona e qui a Reggio Calabria non esiste proprio. Perché lo Stato non impone ai comuni di fare dappertutto la differenziata, visto che poi paghiamo più tasse di spazzatura, più di Salerno e più di qualsiasi altro comune. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua. Allora, intanto tutti i contatti, tra poco anche per poter intervenire in diretta all'800 24 00 24, il numero per i vostri sms se volete commentare le notizie di giornata, ma anche raccontarci le vostre buone notizie, 349-238-6666. Su Facebook si può fare /Radio24, invece siamo anche su Twitter, così diciamo Twitter tutti, l'account è @si può fare 24, il mio @AleMaurizzi. Riprendiamo a dare uno sguardo sulle prime pagine dei giornali e sul Corriere della Sera, oltre ai titoli sulla legge di stabilità, assalta la legge di stabilità, Letta, niente seconda rata dell'IMU, l'offensiva del PD sulle pensioni, ci sono le parole, diciamo, del Papa sul i devoti della Dea Tangente rubano ogni anno 60 miliardi al paese. La denuncia di Papa Francesco ieri è arrivata, non è la prima volta che il Papa si interessa di questo argomento. Leggiamo Gian Antonio Stella: il Papa condanna la Dea Tangente che toglie la dignità, l'omelia, non date ai vostri figli il pane sporco. Si incomincia forse con una piccola bustarella, ma è come la droga, si finisce con la malattia della suefazione alle tangenti. Anche da arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio aveva ammonito con durezza i corrotti, ma ieri il Papa nella sua omelia mattutina a Santa Marta ha coniato una di quelle espressioni destinate a restare, pregando e invitando a pregare perché il Signore cambi il cuore di questi devoti della Dea Tangente per i loro figli, tanti bambini e ragazzi che ricevono dai loro genitori il pane sporco. Questa, come dice Stella, ma insomma hanno detto anche altri, è un'espressione che forse è destinata a rimanere, il pane sporco che arriva dalla corruzione, dalla Dea Tangente. Invece, dice il Papa, Dio ci ha comandato di portare il pane a casa col nostro lavoro onesto. Su Repubblica troviamo spazio anche a, per la foto, il tifone più grande del mondo, il tifone sulle Filippine visto dal satellite, è una cosa impressionante, 700.000 persone in fuga nelle Filippine. Andiamo a leggere brevemente: nessun tifone a memoria d'uomo e di testi di storia ha mai toccato terra alla velocità di Haiyan, o di Yolanda come lo chiamano i filippini. Dall'alba di ieri e per tutto il giorno, lungo 600 km, i venti hanno soffiato, pensate, oltre 300 km orari, con punte di 378 km orari prima dell'impatto con le coste dell'arcipelago. Pensate che nella graduatoria dei tifoni il livello massimo, oltre 250 km orari, livello 5, sono definiti catastrofici. Queste muri di acqua e di mare spinti dal riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, che hanno trovato però stavolta, scrive Repubblica, una gran parte della popolazione pronta al peggio. 700.000 persone sono state infatti evacuate e riparate nei rifugi appositamente allestiti. Di certo la cifra fino ad ora ufficiale di 4 vittime appare sottostimata, così scrive Repubblica. La stessa foto del tifone anche nella pagina principale della stampa: s'abbatte sulle Filippine il tifone dei record. Haiyan viaggia a 300 km all'ora, morte, devastazione, centinaia di migliaia di persone in fuga. Sulla stampa c'è anche la notizia che ha sentito anche i nostri giornali radio, l'intervista tra l'altro del nostro Sergio Nava al ministro di istruzione Maria Chiara Carrozza. I professori a 70 anni devono lasciare, devono andare in pensione. Dice la Carrozza sostanzialmente che a 70 anni i professori universitari, se fossero generosi e onesti, dovrebbero andare in pensione, offrirsi di fare gratuitamente seminari, seguire laureandi ed offrire le proprie biblioteche all'università. Leggiamo brevemente frasi come queste. Maria Chiara Carrozza le ha pronunciate centinaia di volte, molto prima di diventare ministro dell'istruzione, quando era rettore più giovane d'Italia e lavorava nel PD per costruire un movimento antibaroni del partito. Nessuna meraviglia che continui a farlo oggi che è ministro, così come ha fatto nell'intervista a Giovani Talenti su Radio 24. Sì, ci sarebbe solo da chiusare che da ministro potrebbe fare, e forse ci aspettiamo che faccia qualcosa, perché questa previsione auspicata da tutti, forse tranne che dai professori ultra settantenni che forse non vorrebbero andare in pensione, cavoli loro, però che si creino questi spazi, sì, ma anche per i giovani, ma anche grazie all'intervento del ministro. Quindi non basta, secondo me, io sommessamente lo dico, dirlo, auspicarlo. Certo, quando poi si tratta di fare una legge per obbligare qualcuno ad andare in pensione, non è, sembra che sia impossibile, ma invece è proprio quello che bisogna fare, altrimenti restano parole. Sulla prima pagina del Giorno invece troviamo un'altra notizia che non c'è sugli altri giornali. Lampedusa, faccia da schiavista, cioè la foto del somalo di 34 anni, trafficante dei 366 disperati portati a morire in mare il 3 ottobre, catturato sull'isola, e i sopravvissuti volevano linciarlo. Le testimonianze parlano di stupri e violenze sui profughi prima del naufragio. Anche qua leggiamo brevemente sul Giorno, quotidiano nazionale. In 366 sono morti affogati il 3 ottobre, 20 giorni dopo i sopravvissuti ritrovano rinchiuso con loro all'interno del CIE di Lampedusa un somalo di 24 anni, lo riconoscono come uno dei capò che li aveva perseguitati nei tremendi giorni della traversata. Subito si scatena la rabbia cieca, solo l'intervento degli agenti di polizia salva l'aguzzino dal linciaggio. L'uomo è accusato di tratta di esseri umani, violenza sessuale, e ora è sospettato di far parte dell'organizzazione che gestisce i traffici dei disperati. Ci è voluto un po' di tempo prima che venisse riconosciuto, bisognerà che ci trovino anche delle prove per dimostrare questo, però quello che succede l'avete capito: nel CIE a un certo punto lo riconoscono, gli saltano addosso perché, oltre a essere quello che li ha trasportati in condizioni disperate in mezzo al mare, è anche l'autore di violenze. E c'è una testimonianza di una ragazza eritrea di 18 anni: dopo avermi legata, imbavagliata, dice, mi hanno gettato della benzina in faccia provocandomi una terribile bruciore in testa e sugli occhi, poi tutti e tre a turno hanno abusato di me. È una cosa veramente incredibile, terribile. Sulla prima pagina del Giorno c'è anche la notizia, che c'è anche il Corriere, il leghismo ultra al tramonto, il sindaco di Adro, lo sceriffo ai domiciliari, dalla mensa negata agli indigenti all'accusa di aver favorito le imprese amiche. La notizia è che il sindaco di Adro, Oscar Lencini, è finito agli arresti domiciliari per turbativa d'asta, quello che aveva messo il sole delle Alpi da tutte le parti nella scuola di Adro. Poi il ministro di istruzione all'epoca, Maria Stella Gelmini, gli aveva fatto togliere quello che aveva negato la mensa ai bambini italiani e stranieri i cui genitori non pagavano la retta. E quando poi un benefattore, un imprenditore di Adro, tra l'altro omonimo perché si chiama anche lui Lencini, aveva pagato il conto della mensa, il Napolitano l'aveva fatto cavaliere per questo, il sindaco di Adro disse che bisognava vergognarsi di Napolitano perché aveva fatto cavaliere questo imprenditore. Allora io dico, uno può pensare come vuole sulla mensa e sul fatto che i bambini non paghino le rette, che qualcuno se ne approfitti, però se poi uno arriva, paga il conto, che gliene frega il sindaco di Adro se il Napolitano lo vuole riconoscere come cavaliere per questo gesto nobile. Insomma, una battaglia che secondo i giornali oggi segna il tramonto con questi arresti per turbativa d'asta del leghismo più ultra in queste terre del nord Italia. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, un attacco a Renzi che c'è anche sul Libero. Pensioni di reversibilità, Renzi scarica nonna Maria. Che succede? Il sindaco rottamatore prepara la riforma della previdenza tirando in ballo gli assegni alle vedove. La spesa è troppo alta, si può tagliare. L'importo medio però, scrive il Fatto, è di 565 euro. La CGIL insorge, è una vergogna. Lo zio di Matteo, quei soldi sono serviti pure a lui, perché è una vicenda familiare. Adesso leggiamo più avanti di cosa si tratta, però leggiamo anche l'altra notizia, sempre sul Fatto Quotidiano. Pizzino dell'Utri, grazia per Berlusconi, chiesta dai figli, no del Quirinale. Manovre sulla clemenza nel giorno in cui il Caimano dice a Letta zio che il governo deve comunque andare avanti, a casa, scusate. Letta Junior prova a offrire ad Alfano lo stop al pagamento della seconda rata dell'IMU. Cioè il Fatto Quotidiano lega l'annuncio di Letta sullo stop alla seconda rata dell'IMU a queste manovre attorno alla grazia di Berlusconi. Cos'è successo? Che Dell'Utri ha detto a Virus, a Porro, ieri in televisione, che la grazia è stata chiesta dai figli per Berlusconi, ma che il Quirinale non la vuole dare. Il Quirinale ha smentito che la grazia sia stata chiesta. Ora, delle due l'una: o la grazia si è persa per strada, il postino ce l'ha in mano, la sta recapitando al Colle, al Quirinale, oppure questa notizia non c'è, non esiste, è una panzana che serve per riaprire però questo dibattito su questa questione qua. Sul Libero invece dicevamo, sempre relativamente a Renzi: Renzi è pericoloso, vi spiego perché, altro che uomo nuovo. La prima pagina è dedicata a questo. Prima diceva cose che piacevano a destra, scrive Maurizio Belpietro, ora imbarca le cariatidi di sinistra e sciorina un programma di socialismo reale sulle pensioni, poi è da brividi. Perché Leggiamo, altro che rottamatore della vecchia classe dirigente, adesso il sindaco di Firenze imbarca tutte le cariatidi, da Fassino a Bassolino, da Castagnetti a Franceschini, ma non è solo questo a preoccupare, sono anche le sue ricette. Prendete per esempio il tema delle pensioni. Da tempo il giovane giovanotto che ha fatto un cavallo di battaglia convinto che spremendo le pensioni si possano sistemare i conti dell'Italia. Dove si trovano i soldi per il cuneo fiscale? Ovvio, togliendoli appunto ai pensionati d'oro. Peccato però che le pensioni di cui parla Renzi siano non importa, scrive il Libero, che le pensioni d'oro siano solo in tutto 540 e costino complessivamente 170 milioni. Non so che cifre ha il Libero, ma mi sembra che le cifre siano diverse. Si parla di diversi miliardi di euro. Però la cosa più gustosa è questa: siccome ha una nonna che è rimasta vedova in giovane età e a 90 anni continua a percepire una congrua pensione di reversibilità, l'affettuoso nipotino ha in programma di ridurre la pensione alle vedove. Ma come avete sentito, lo zio di Renzi ha detto, beh, quei soldi sono serviti anche a lui. Sul giornale c'è un'altra notizia che riguarda lo scandalo dell'amianto alla Olivetti. Più che lo scandalo è un fatto, insomma. De Benedetti, nuovi guai, lo scandalo di Ivrea esposto anche a Milano, l'inchiesta sui morti alla Olivetti potrebbe allargarsi. Leggiamo, all'Olivetti di Ivrea l'amianto era dappertutto, nei computer, poi nei muri, nell'intonaco, negli affissi, e l'amianto è responsabile di una strage a scoppio ritardato che si manifesta in questi anni. Sono almeno 20 gli ex dipendenti morti per tumore, l'indagine è destinata fatalmente ad allargarsi. Anche nella sede di Milano l'amianto era dappertutto. Questa è la notizia che troviamo sulla prima pagina del giornale. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, buongiorno, Carlo Gabardini, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato a metà servizio oggi, il nostro stagista opinionista, esatto. Perché tutto vestito a puntino per andare a un matrimonio. Tra poco ci lascia, ma non tra pochissimo. No, alle 9:30, vado a un matrimonio a Firenze, tra l'altro di una mia ex fidanzata, che mi sembra giusto, diciamo, dopo la lettera sulla gaytudine che è uscita su Repubblica, tutte le mie ex fidanzate giustamente si stanno sposando, ritengono che non c'è speranza, diciamo. Meglio per lei, adesso finalmente c'è un futuro felice per lei, non con te. Assolutamente sì, infatti sono contentissimo. Fidanzato o fidanzato faccio che fosse, la mia era una battuta. No, no, è una fidanzata che si sposa a Firenze oggi. Sei pronto per la neve? Hai sentito le previsioni? Sull'Appennino nevica, eh? Ah, però. Quindi tu passi l'Appennino, però sarai in treno. Quindi. Io sono in treno, speriamo che arrivi, anche perché sono proprio coi minuti contati. Che notizie ci porti quest'oggi? Allora, le notizie di oggi. Una notizia da Napoli, dove l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, conversando, diciamo, con i giornalisti, ha detto: bisogna dire alla nostra gente la verità su quello che è accaduto, parlando, diciamo, dell'inquinamento, ma bisogna anche dire loro quanto di positivo finora è stato fatto. È tempo ormai che tutti siano insieme per continuare a liberare la nostra terra dai veleni. Ma la cosa interessante è la chiusa di tutto questo discorso, dove l'arcivescovo di Napoli dice: chi inquina non è in grazia di Dio e non può fare la comunione. Mi sembra molto interessante, in un momento in cui addirittura il Papa ha mostrato delle aperture nei confronti di chi ha divorziato, che quindi anche i divorziati possano fare la comunione, mi sembra molto bello invece chiudere ai criminali. Diciamo che se la Chiesa chiude i criminali e apre i divorziati, noi ne siamo contenti. Beh, insomma, visto che da quelle parti c'è il problema della terra dei fuochi, esattamente, c'è un minimo di urgenza, quindi questo si sente anche nelle parole del cardinale Sepe. E mi sembra un buon segno, diciamo. Andiamo a Padova, dove in una libreria Feltrinelli, da 10 anni, alle ore 15 puntualmente, una signora anziana vestita elegante, abituata, diciamo, alle buone letture, entra dentro nella libreria, si siede sul divanetto del piano terra e lì dorme per 2 ore. tutti i giorni feriali alle 15, da 10 anni lei fa la pennichella in mezzo ai lettori, ai giovani che vanno lì a leggere. Questo clima dei libri è molto rasserenante, rassicurante, evidentemente. Esattamente. Infatti, forse la signora soffre di insonnia e riesce a dormire solo lì. Non si sa, perché gli stessi dipendenti della Feltrinelli, lo stesso direttore, non conoscono la signora, nonostante diciamo frequenti la loro libreria spesso. Da 10 anni, sanno che arriva in tram, ma non l'hanno mai disturbata. Direi che a loro vanno i complimenti per il fatto che dicono: è giustissimo, qui c'è un divano, è per leggere, se la signora vuole riposare non c'è assolutamente nessun problema. Sono avvezzi in questa libreria di Padova, perché c'è anche una barbona che va tutti i che va da anni in questa libreria, ci va un'unica volta al mese e legge per 5 ore di fila solo libri di sociologia. Accidenti la barbona, hai capito? E andiamo a una notizia invece estera. Andiamo in Germania, a Wiesbaden, nella Germania centro-occidentale, dove c'è un bar che si chiama Slow Time Das Zeit Café. Ed è un locale dove, diciamo, il tempo è denaro e le consumazioni sono gratis. Cioè non si paga in questo, non si paga il caffè, non si pagano gli snack, che sono tutti gratuiti, ma bello, si paga per quanto tempo si sta dentro in questo bar. E l'idea mi sembra... Quanto costa però? Perché costa, magari ti costa di più. Esatto, anch'io ho subito avuto la stessa reazione, ho detto: beh, grazie, se costa 80 euro all'ora è semplicemente un bar col buffet gratuito. Costa 2 euro ogni mezz'ora, dopodiché costa 5 centesimi ogni minuto aggiuntivo. Insomma, se arriva a 3 euro... Madonna, com'è complicata questa cosa. Esatto, qua. Se arriva a 3 euro... Solo i tedeschi potevano pensare una roba del genere. Devo dire che l'idea mi sembra molto buona, perché è un posto dove tu puoi anche portarti da mangiare da casa. Onestamente, chiamarlo slow time, cioè diciamo attaccandosi allo slow food, io penso che con la crisi che c'è, sicuramente in Italia, non so in Germania, ma in Italia, un posto dove tu paghi quanto tempo ci stai dentro, secondo me si trasformerà in un fast food, perché io entro, sto mezzo minuto, ti do 20 centesimi e vado via. Ma pensa che un tempo le osterie funzionavano così: si pagava a tempo e uno mangiava fin quanto poteva, ma nel Medioevo, questa è una tradizione, un'antica tradizione bolognese, per esempio. Sì? Quanto sì. poteva? Sì, uno mangiava per 5 minuti quello che riusciva a mangiare col cucchiaio e poi andava via e pagava cioè, a tempo. Quindi deve essere velocissimo. Lo you can eat l'abbiamo inventato noi, quello esatto. che usano, fanno moltissimo i ristoranti cinesi e giapponesi. Sì. Beh, molto bello questo, sono contento, ho imparato una cosa. Basta, finito? È finito! 800 24 00 024, cari ascoltatori, io oggi, da oggi, noi da oggi vi vogliamo mettere in competizione anche sulle buone notizie per quanto riguarda le regioni italiane, perché in questo primo anno e mezzo di programma abbiamo fatto una raccolta di tutte le storie, le notizie che sono transitate, circa un migliaio tra ospitate, racconti eccetera, e facendo la classifica delle regioni dalle quali provengono le buone notizie in Italia, almeno per quello che abbiamo censito noi, vengono fuori delle cose interessanti. Allora vogliamo fare in modo che chi è rimasto indietro, le regioni che sono rimaste indietro, possano recuperare e quindi andare a pari con le altre. Per esempio, in testa a tutti c'è la Lombardia, ma perché è la regione più grande, quindi rispetto ai suoi abitanti la Lombardia ha un numero di buone notizie che è in equilibrio. Invece l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana sono in vantaggio, tanto per dire, sono le prime della classifica. Indietro ci sono Campania, vabbè, tutte quelle del sud, non ve la prendete, ma è così, Sicilia, anche il Veneto, il Lazio, la Sardegna, la Calabria e l'Umbria. Quindi, non ve la prendete, anzi, direi che avete la possibilità di recuperare. Quindi, cari amici della Campania, della Sicilia, del Veneto, del Lazio, della Sardegna, della Calabria e dell'Umbria, chiamateci per raccontarci le vostre buone notizie, oltre che per commentare i fatti di giornata, perché così recuperiamo posti e poi alla fine dell'anno faremo una. Tra l'altro, i metodi sono due, correggimi se sbaglio, Alessio, perché da una parte c'è telefonare e comunicare una notizia, dall'altra è creare una notizia, cioè fare un'attività incredibilmente buona che poi diventi una notizia e quindi si guadagna un punto per la propria regione. Come sapete, anche minuzie, anche storie piccole, storie singole, storie familiari, storie poco più che familiari, anzi più sono piccole a volte più sono gustose, a noi ci piacciono così. Show me what she bought. All stop, questa è bella canzone, perché le ultime notizie sulla fermata dell'autobus romana, quella dell'ATAC, di questo incredibile scandalo, sono queste. Il sindaco di Roma ha detto: siamo parte civile, cacceremo i ladri, lo scandalo è concluso. Detto. Insomma, adesso non li fanno più i biglietti clonati per rivenderli sul, diciamo, mercato nero, ma non era un mercato nero, erano le biglietterie ufficiali. Hai capito cosa facevano? Anzi, se l'ho capito è pazzesco, ma è quella storia di che sono 70 milioni di 70 biglietti. 70 milioni, stampavano i biglietti doppi, tripli, quadrupli rispetto al numero di matricola. Con la stessa matricola, quindi. Sì, sì. Certo. E poi li davano alle biglietterie che li vendevano, e però loro ci facevano un margine perché era una vendita al mercato nero sostanzialmente. Certo. E quindi erano loro stessi, era la stessa ATAC. 70 milioni di euro, personale dell'ATAC che truffava la sua azienda e ha sottratto 70 milioni di euro all'azienda e alla collettività. Perché scusami, la prima volta che sentì la notizia sembrava che fosse l'ATAC stessa a fare questa cosa per creare del nero per poi finanziare la politica. Questo diciamo. È quello che deve essere dimostrato. Che deve essere dimostrato. Infatti ci sono già 15 indagati. Fino a prova contraria è una truffa in cui anche l'ATAC stessa parte lesa. Però lì è tutto da capire a che livello di dirigenza questa cosa avvenisse. Chissà che effetto fa questa cosa vista da Settimo Torinese, dove i mezzi di trasporto viaggiano gratis, avete capito? L'hanno risolta proprio alla radice. Un po' di tempo. Noi abbiamo convocato il sindaco Aldo Corgiat, buongiorno. Buongiorno. Sindaco di Settimo Torinese, che avevamo sentito un po' di tempo fa quando questa iniziativa era stata lanciata, perché ci sembrava una bella notizia. Lodevole, assolutamente. Lodevole per i pendolari della zona. Adesso intanto le chiedo, sindaco, voi state andando avanti con questo progetto partito circa un anno fa di una parte almeno dei mezzi di trasporto pubblici gratis nella vostra città? Assolutamente sì, noi abbiamo le navette urbane che... Sì? Garantiscono un trasporto quotidiano con frequenze ovviamente paragonabili per utili per Settimo, non per Roma, ma che sono molto utilizzate, sono assolutamente gratuite. Beh, voi però quanti abitanti fa la vostra città? Non è proprio un paio. 50.000 abitanti. Insomma, una cittadina. Quante linee sono queste che avete messo a disposizione? Sono tre linee che collegano i principali punti e servizi pubblici, l'ospedale, la stazione, le scuole, i mercati, insomma, i punti di pubblica utilità, e che sono largamente utilizzate in particolare da anziani e adolescenti, cioè quelli che hanno più problemi a utilizzare il trasporto privato. Senta, sindaco, ma questa vostra è una scelta politica, io immagino, cioè una priorità che voi mettete a bilancio, perché ovviamente questo servizio che non pagano gli utenti lo paga il comune. È nata da un ragionamento economico, perché abbiamo valutato che alla fine tra i costi di controllo, di stampa, di gestione del pagamento, erano quasi pari ai ricavi da biglietteria. Mettiamoci in dentro realtà, pure i costi di doversi, diciamo, tutelare a truffe come quella che è accaduta a Roma, per esempio. Sì, cioè, poi alla fine, se voi non avete questo rischio, non correte naturalmente questo rischio, non ve ne frega nulla. No, se le dimensioni sono diverse. Certo. Diverse, quindi chiaramente anche i controlli sono più semplici, però i costi di controllo sono molto elevati. È interessante questo, che in realtà i costi di controllo siano elevati e quindi abbattendo quelli si risparmia. Cioè, quindi l'elenco dei costi, invece... sindaco, ce lo rifaccio un attimo, stampa dei biglietti. Stampa dei biglietti, distribuzione. Ovviamente riconoscimento dell'aggio ai punti vendita. Il controllo vostro. Sistematico e ovviamente controllo sull'evasione, su eventuali clonazioni come nel caso di Roma. La somma di controlli di questo genere alla fine supera i ricavi. Ma da voi quanto, scusi, ancora su questo punto, quanto costava il biglietto prima che voi lo togliesse su queste linee e quanto costa magari sulle altre? Noi avevamo biglietti da 1 euro e 2, sì. E avevamo gli abbonamenti già sugli anziani ridotti. Mi pare che fossero 10 euro al mese l'abbonamento. Quindi su questi costi, visto il numero di passeggeri, a voi, diciamo, costava, lei dice proprio costava di più fare... Noi incassavamo grosso modo 55.000 euro l'anno, e ne spendevamo 42, quindi il netto, cioè un'analisi dei costi ce l'ha portato a queste conclusioni. Ma cioè lei spendendo 13.000 euro ha fatto la bella figura di poter dire basta, non li paghiamo più. È che interessantissimo, anche un messaggio. Anche dal punto di vista del principio, perché io continuo a pensare che il trasporto urbano possa essere paragonabile ai tapirulan negli aeroporti piuttosto che ai marciapiedi nelle città. Cioè il vantaggio che gli altri cittadini, quelli che non usano il trasporto, hanno da una riorganizzazione della mobilità interna urbana è sicuramente molto elevato. Cioè conviene a tutti, non solo chi lo usa dovrebbe pagare il biglietto, voi l'avete tolto perché non vi costa. C'è la motivazione perché questo tipo di servizio venga considerato, ripeto, come un marciapiede. Prioritario. Certo. Ti sognerebbe di far pagare un marciapiede. Quindi, e anche perché i benefici sono veramente per tutti, è questo che trovo incredibile, è verissimo, c'è meno inquinamento. La mobilità extraurbana, che è giusto che venga pagata, che però ovviamente ha un pubblico minore dal punto di vista dell'utente. Oh, però voi avete anche delle linee, scusi sindaco, voi avete anche delle linee normali però a pagamento. È chiaro che per tutti i collegamenti. No, giusto per chiarire, sì. La città di Torino piuttosto che la ferrovia, sì, che di fatto si sta trasformando in una sorta di metropolitana leggera comunale, quelle sono a pagamento. Ma senta, ma secondo parlo lei del traffico urbano. Ma che effetto le fa quello che è accaduto a Roma, a lei che su questo tema dei trasporti pubblici ha fatto una politica molto originale, diversa dalla maggioranza dei comuni? Forse anche allora avrebbe potuto convenire fare come voi. Bisogna evidentemente scriverle alla categoria dei reati, quindi vanno individuate responsabilità personali, individuali da parte della magistratura. Dal punto di vista del sistema, anche su Roma, io penso che se i numeri sono quelli che ho letto nei diversi servizi, qualche riflessione proprio di sistema ci starebbe. Io penso anche che questo abbinato a una diversa mobilità urbana, magari con i car sharing elettrici, piuttosto che con mezzi che in prospettiva potranno anche viaggiare, come succede ormai in gran parte della logistica senza autista, potrebbero essere davvero il nucleo di un ragionamento per le città intelligenti. Senta, la ma città del futuro io la vedo così, insomma. Fino a che grado di grandezza della città, secondo lei, una politica come la vostra può essere, oltre che giusta, questo lei ci crede, ma anche conveniente dal punto di vista economico? Cioè, lei, sicuramente su tutte le aree centrali e centri storici io credo che sia una politica immediatamente applicabile, senza problemi. Cioè fino a città di 100.000 abitanti, che ne so. Ma anche nelle grandi città, se lei pensa, io conosco ovviamente meglio Torino, ma tutte le aree centrali dove c'è un mix di parcheggi a pagamento, a Milano ci sono i portali, cioè ormai il tema della riorganizzazione del trasporto passeggeri pubblici, ma anche delle merci addirittura, nelle città grandi, parliamo pure delle metropoli, secondo me è estendibile soprattutto le grandi città. Porterà un sacco di voti questa cosa qua. Lei sarà sicuramente rieletto alle prossime elezioni. No, io sono al secondo mandato e va bene. Quindi basta. Ah, ma mi scusi sindaco, le posso chiedere una cosa? Magari una domanda stupida. Ma sono gratuiti per tutti o solamente per i residenti a Settimo? Sono gratuiti per tutti. Il tema è la mobilità urbana. Certo. Non importa se sei il cittadino che ha pagato le tasse a Settimo piuttosto che a Torino. Cioè, ha senso costruire servizi di questo genere se li fai partire da un concetto di mobilità, non da un concetto. Certo, no, ma è chiarissimo. No, perché me lo chiedevo, perché nelle grandi città, secondo me, come dice lei, è vero che si potrebbe assolutamente fare i mezzi pubblici gratuiti. Credo che diciamo l'indotto di ciò che è anche tutto il turismo, città come Roma o Venezia, così, credo che invece vorrebbero far pagare il biglietto perlomeno ai turisti e magari non farlo pagare ai residenti, che potrebbe essere un'idea. Però guardi, ognuno di noi ha fatto il turista in una grande città. Certo. Se ci sono servizi turistici, uno quando fa il turista evita di risparmiare. Esatto, esatto. È un'altra situazione. Dobbiamo chiudere. Grazie mille al sindaco di Settimo Torinese, Aldo Corgiat. Abbiamo gli ascoltatori in linea, per esempio Mario da Cosenza. Lo sentiamo dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con la squadra che si può fare al completo. Questa mattina abbiamo in regia Peter Bescapè, l'alpino, che normalmente lo sentite tutte le mattine con Alessandro Milan a 24 mattino, Giorgio De Luca in redazione, al Twitter anche di Si Può Fare, certo, l'account è @ Si Può Fare 24, potete scambiare battute in tempo reale con noi, in studio Alessio Maurizio e Carlo Gabardini. Sì, sì, anche con i nostri Twitter potete. 349-238-6666, così abbiamo detto tutto, il numero per gli sms. Ci scrive Andrea da Bologna: ma il traffico è diminuito a Settimo Torinese, non gli abbiamo chiesto al sindaco Corgiat, però penso che qualche beneficio ci sia stato, visto che i mezzi di trasporto sono, del trasporto pubblico locale, sono gratuiti, e questa era la bella notizia da Settimo. Poi, visto che abbiamo messo in competizione le regioni italiane, ci certo. scrivono da Cuneo: anche a Cuneo il trasporto locale è gratis, quindi il Piemonte vince due punti comunque, quindi uno abbiamo un altro è una doppietta punto, del Piemonte, un altro punto per il Piemonte, perché quell'altro ce l'avevamo già a Cuneo. Poi naturalmente queste notizie dobbiamo verificare anche chiaramente, certo. però vedremo poi alla fine dell'anno e vi daremo la classifica, se insomma, qual è la classifica tra le regioni italiane in quanto a buone notizie. 800 24 00 24. Scusami, ti ho interrotto. Non tocca allo stagista, vero, verificare tutte le notizie? Sì, tocca proprio a te. La mattina del lunedì a Natale un super lavoro invece di andare in vacanza. Il giorno di Natale ci sono. Ascoltatori, Paolo da Firenze, buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, volevo segnalare, premetto, io sono un dipendente della regione Toscana e segnalo un'iniziativa della regione, non spero non ci sia conflitto di interessi. Ma no, nessun conflitto di interessi, dica pure. No, Vetrina Toscana si chiama questa iniziativa sì? della regione Toscana. E andando su internet si può facilmente vedere di cosa si tratta, ma in due parole mette in rete, ed è una delle uniche che a livello proprio di tutta di una regione grande, poi anche come la Toscana, mette in rete i ristoranti e le botteghe alimentari che sostanzialmente hanno una specie di disciplinare che rispettano per mettere a disposizione e evidenziare i prodotti che sono chiaramente DOP con tutte le caratteristiche. Ma cos'è? La notizia è un sito internet? No, non è un sito, cioè proprio attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle camere di commercio viene messa a disposizione un kit, viene messa a disposizione anche tutta una serie. Ma per fare cosa? A disposizione di chi? Nel senso di noi cittadini normali? La catena è questa: la regione insieme al sistema delle camere di commercio e con un'assistenza delle associazioni di categoria del commercio mette a disposizione per i ristoratori e per le botteghe alimentari un elenco di fornitori senza naturalmente che cosa hanno di particolare questi fornitori? Un elenco di fornitori che rispondono ai requisiti e che sono disponibili a stare in questa rete. Ma requisiti quali sono i requisiti? Quali sono i requisiti per stare in questa rete virtuosa? Perché virtuosa? I requisiti per stare nella rete sono individuati in una disciplinare che dice quanti prodotti, il numero di certi prodotti. Naturalmente sono tutti elencati i prodotti. Non si capisce però Paolo, cioè in cosa consiste il fatto che questi prodotti siano più virtuosi degli altri? Cosa hanno di bello? Attenzione, cioè questa è una rete che certifica la qualità della distribuzione che ha fortemente caratteristiche identitarie del territorio. Quindi non prodotti a chilometro zero, per esempio? Esatto. Noi diciamo prodotto ieri a un'ora da qui, no? Come tipo di... Va bene. Paolo, lei ci segnala questa cosa qua, una rete in cui collabora anche la regione, in tutta la regione toscana questa cosa è possibile? Sì, è tutta, copre tutto, naturalmente sono circa un mille più va di bene, mille. Va bene, la promozione, grazie Paolo, grazie dei prodotti mille. Locali, in effetti, soprattutto se sono buoni i prodotti certo. locali, però c'è sempre c'è la circolare, nella circolare secondo me c'è scritto anche che devono essere buoni. La circolare, no, che è tutto ironico. Molto difficile. È molto protocollata questa buona notizia. È ironico perché è molto difficile capire per noi cittadini qual è. Scusa, io sono lo stupido di e non sono il giornalista, quindi giustamente dico: ho capito, ma io che sono toscano, cosa faccio di questo kit dell'elenco? No, cosa devo fare? Perché va ai gestori dei ristoranti, ma questo era un dipendente della regione, è una notizia che doveva telefonare, burocratica, certo. quindi ci bisogna andare a scavare per capire. Io sono qua per imparare, ci mancherebbe. Alberto da Padova, buongiorno. Buongiorno, io vorrei parlare in particolare con lo stagista, visto che deve lui verificare dopo. Certo, eccolo. Tra l'altro lei viene da Padova, quindi dopo le chiediamo anche se conosce la signora che va alla Feltrinelli da 10 anni tutti i giorni alle 15 a fare il pisolino. No. Il signor Alberto non frequenta la Feltrinelli. Prego, Alberto. Ci dica. Allora, niente, ho un articolo che ha fatto il vostro collega, che si chiama Enrico Favana, sul giorno del 31 ottobre 2013, nell'attualità, sì. Dove c'è un ingegnere di Padova che si chiama Marie, ha fatto una scoperta eccezionale da quello che si legge, visto sì. che i collaudi sono stati fatti all'Università di Pavia, sì. attraverso il programma. Qual è la scoperta? Sembra che siano riusciti a depurare l'acqua dei reattori nucleari. Ah, però. E quindi questa è una bomba. Però dobbiamo adesso costruire i reattori nucleari, perché noi non ce li abbiamo. No, invece li abbiamo. Se legge l'articolo vede che l'ingegnere... Stavo scherzando. Senta, allora, Alberto, ma è interessante questa cosa pubblicata il 31 ottobre dal giorno. Quindi scusi, mi faccia fare la domanda. Prego, ma quindi prego. Sarebbe uno studio innovativo per depurare le acque dei reattori nucleari, una cosa che prima non si riusciva a fare? Non c'è nessuna tecnologia che è comparabile con questa. E questo l'ha fatto un ingegnere di Pavia? Di Padova che ha lavorato io volevo portare avanti il Veneto nella vostra trasmissione. Bravo, va bene, allora questa ce la segniamo, Veneto, e poi naturalmente bisogna verificarle queste cose qua. Grazie Alberto. Tra l'altro tu dici che non ci sono centrali nucleari, invece io ho scoperto qualche giorno fa che ce n'è una dalle mie parti, tra Pisa e Livorno, che è stata attiva fino al 1980, e proprio in questi giorni c'è una polemica con gli ambientalisti ma anche i cittadini della zona, perché stanno per far defluire le acque di questa centrale nucleare proprio in mare. Dicono che hanno una bassa intensità di radioattività, la gente ovviamente è preoccupata, è una zona turistica tra l'altro quella cosa là, e quindi questa scoperta assolutamente. Di Padova la dicevo più come battuta, nel senso di dire abbiamo trovato la soluzione, siccome abbiamo chiuso le centrali nucleari dopo il referendum, però in realtà ovvio che le ci scorie, sono, le acque rimangono lì per un sacco di tempo e dove vanno a finire chi lo sa. Questa veniva da Padova, vabbè, tutto da verificare, Veneto, certo. Un punto. Must Be The Place, è bellissima, è Talking Heads, questa è una rivisitazione. Poi trovate tutti i link sulla pagina internet, sul sito di Radio 24, sulla pagina del programma, si può fare. Ci mettiamo tutti i riferimenti anche alle canzoni. Certo. Ben voglia di le innamorarsi. Scelte musicali, Giorgio De Luca e Andrea Piana, che sono gli autori e redattori di questo programma. Il posto di cui vogliamo parlare sono in realtà i luoghi sequestrati alla mafia, i famosi beni confiscati alla mafia, che poi prendono nuova vita, noi almeno leggiamo così sui giornali. Cambiano destinazione e finalmente tornano nelle mani della collettività e nella legalità soprattutto. Però c'è un problema, tra l'altro c'è un festival a Milano in questi giorni, il secondo festival dei beni confiscati alle mafie, in memoria di Lega Rofalo, però è sorto un problema, che spesso le aziende sequestrate alla mafia, soprattutto le aziende, non riescono poi a andare avanti, a produrre, a continuare a fare quello che facevano prima, anche se nell'illegalità, a farlo nella legalità. Se ne è parlato questa settimana in Sicilia, perché c'è stato uno sciopero, lo sciopero regionale dei lavoratori edili della CGIL, che hanno delle cose a dire su questa questione qua. Noi abbiamo convocato il segretario della Fillea CGIL, Walter Schiavella, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ci racconti un po' perché avete fatto questo sciopero, per dire che cosa c'è che non va nella gestione delle aziende confiscate alla mafia, il tema che ci preoccupa molto, perché vogliamo che questa economia riparta, però anche con nella legalità, ma che riparta. Assolutamente, è quello che vogliamo noi, vogliamo che le aziende che con la mafia lavoravano, con lo Stato, debbano lavorare ancora di più, riportate alla legalità, ripartendo dal loro valore sociale. Il problema è che la legge Rognoni-La Torre, costruita ormai qualche decennio fa, una legge importantissima che va rafforzata, sì. Non faceva i conti con l'entità dei beni confiscati. Cioè si immaginavano cose piccole, invece sono cose grandi. sono molte e poche riescono ad essere riavviate al ciclo dell'economia legale. Soprattutto il problema si pone, dicevate giustamente, con le aziende. Con i beni per certi versi è più facile. Un'azienda è un'entità che va gestita, soprattutto aziende di una tipologia particolare come le aziende edili, che vivono all'interno di catene di appalti, di subappalti, che quindi vanno da un versante bonificate con un'attenzione maggiore, dall'altra tenute in vita in un contesto nel quale sono fortemente legate alla dimensione, ai ritmi e ai tempi di altre aziende. Ecco, ma voi avete anche delle cifre, Schiavella, su quante aziende sono riuscite a far ripartire invece quelle che sono rimaste al palo? E anche perché magari riesce a spiegarci cosa si può fare, tante domande. Allora, però. le aziende, cioè sulla mole delle aziende sequestrate, le confiscate sono molto, già molto poche, sequestrate in via confiscate in via definitiva. Fra quelle confiscate in via definitiva, diciamo la percentuale complessiva di aziende riattivate è molto bassa. Per esempio? Complessivamente delle 7.000 sì. 236 aziende sequestrate ai mafiosi sono circa il 50% della filiera delle costruzioni e solo 731 risultano confiscate in via definitiva. E di queste 731 non significa che tutte siano state poi riattivate. E tutte quelle generale. Altre? E quindi... molto spesso finiscono nel registro fallimentare, chiudono. Perché l'azienda, appunto, se non è attiva non produce beni e quindi ha del personale, quel personale spesso perde per questa via il posto di lavoro, e la beffa più grande che va evitata è che quando arriva lo Stato il lavoro si perda, quando arriva lo Stato il lavoro deve essere riattivato, chiaramente anche verificato, perché non sfugge neanche a noi che spesso in queste aziende possano esserci, proprio per la sua natura costitutiva, quando sono nate, dei fenomeni collusivi che riguardano anche il personale, ma bisogna, si può e si può guardare dentro. Quindi, ecco, queste aziende, e si deve costruire una strumentazione sì. che consenta di fare un passo in avanti, è quello che è contenuto nella proposta di legge della CGL, proposta di legge di iniziativa popolare Io ti attivo il lavoro, sì. che è fondata su pochi principi. Ma l'avete già depositata in Parlamento? Sì, che è fondata su pochi principi fondamentali, uno strumento di tutela per i lavoratori, parlo di ammortizzatori sociali, e soprattutto una strumentazione che aiuti l'agenzia, che oggi ha dotazioni strutturali assolutamente insufficienti, l'agenzia dei beni confiscati e sequestrati, e anche una struttura legislativa di sostegno, appunto. Cioè voi volete che questa situazione. Agenzia per i beni confiscati diventi una macchina molto più efficiente di quello più che è adesso, soprattutto costruisca un rapporto più finalizzato anche alla gestione delle aziende e non dei beni, quindi abbia una relazione col Ministero dello Sviluppo Economico, una sorta di individuazione sì. di commissari che siano però dei manager in grado di gestire quelle anche perché, anche perché deve avere proprio un altro tipo di competenze, nel senso sì, che un conto è vendere una casa, un conto è continuare a gestire un'azienda che prima era gestita dalla mafia. Non solo continuare a gestirla bonificandola, certo, e mettendola in un contesto nel quale spesso il mercato se lo deve ricreare, perché il mercato che aveva prima era legato a una filiera. C'è dove, qualcuno Schiavella che per altri motivi, c'è qualcuno in Parlamento che vi ha preso sul serio, qualche sottosegretario, qualche viceministro, qualche parlamentare? Perché questa notizia era passata un po' sotto silenzio. La proposta di iniziativa sì. della CGL è un'iniziativa che dura da tempo, abbiamo aperto un'interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari, poi in questo paese è sempre più complicato parlare di cose concrete. Sì, ma anche noi bisogna muoversi, direi, perché sennò queste aziende chiudono, perché non è che si può fare fra 5 anni. Ed è questo il senso possiamo muoversi noi, dell'appello. Certo. In Sicilia lì c'erano dei lavoratori che rischiavano e rischiano ancora in questi processi di riorganizzazione delle aziende, di vendita, spesso a pezzi, di patrimoni complessi, che indebolisce complessivamente le singole aziende. Ci siamo mossi con quello sciopero, speriamo di aver riattivato appunto l'attenzione, e vi ringrazio anche per quella che ci dedicate. Noi ringraziamo voi per quello che fate, Schiavella, intanto la salutiamo, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Continuiamo a parlare di questa cosa qua, andando in Puglia, per raccontarvi una piccola buona notizia, anche se non è un'azienda confiscata, è un immobile, abbiamo detto è più facile, però questa storia storia è peculiare, adesso ve la raccontiamo, riguarda Bari. E insomma, riaccendiamo dunque questa luce su questa cosa. Noi ne parliamo spesso, i beni confiscati dalla mafia, siamo tutti felici. Poi però scopriamo che se non si rende più efficiente l'agenzia, se non si usano poi appunto, ma bisogna rendere più efficiente questa agenzia che li gestisce, poi dopo tutto finisce in un nulla di fatto. E allora dicevamo che andiamo in Puglia e parliamo con Alessandro Cobianchi di Libera Puglia. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Libera, che nasce proprio per occuparsi su questo terreno della legalità, e la storia è questa: il palazzo in centro a Bari, credo che siamo a Bari, sì. Che nessuno dal 2009, era stato sequestrato appunto a un boss della famiglia Capriati, nessuno voleva prenderlo perché tutti avevano un po' sostanzialmente di timore, visto che era il palazzo che era stato abitato da questo, insomma, temibile boss che è stato condannato nel frattempo all'ergastolo in modo definitivo nel 2008. Vi siete fatti avanti voi di Libera e avete detto: lo prendiamo noi questo, in gestione questo palazzo. Sì, si tratta di un appartamento. Un appartamento. La casa proprio dove è abitata dal boss. Ma noi abbiamo fatto una cosa assolutamente normale, io credo. Sì. Quell'appartamento era finito da troppi anni dopo la confisca. Il comune è stato bravo in tutti questi anni a rimettere in movimento, diciamo, i beni confiscati, che per anni sono stati letteralmente abbandonati. Quando nel 2009 questa azione è stata gestita coralmente, cioè diversi beni confiscati della città vecchia sono stati messi a bando, questo bene, diciamo, non è stato nelle mire delle associazioni, diciamo così. Noi adesso potremmo pensare che per timore o per qualsiasi altro motivo, ma fatto sta che questo bene è stato abbandonato per diversi anni. Ma c'era questo timore secondo te, Alessandro? Io credo che il timore ci sia sempre, però probabilmente, ripeto, bisogna compiere questi gesti normali. Cioè, se c'è un bene confiscato e il bene viene abbandonato a se stesso, l'unico effetto che si ha è quello che chiunque da... Certo, è un peccato, però questo passaggio qua della paura, del timore, è un fatto simbolico e non è una cosa da sottovalutare, e voi avete la forza, il coraggio di farlo, perché una volta che il bene viene rimesso in moto, in circolo, insomma nella rete della legalità, va tutto bene, però poi c'è qualcuno in prima linea che lo fa, perché fino al giorno prima è sempre l'ex casa del boss e fa paura questa cosa. Sì, e soprattutto il tipo di paura, la cosa che mi chiedevo è, cioè, se è paura nel senso che ci sono minacce, che uno dice chi va lì dentro la pagherà, oppure è più una cosa superstiziosa, diciamo, io non voglio stare nella casa del boss. Io non credo che ci sia né paura né superstizione sicuramente no, altrimenti non faremmo... Beh, paura però direi un pochino sì, no? Se no non ci spiegano tutti questi anni. Lo dico tranquillamente. Sì, la paura anch'io. Preventiva in questo caso sarebbe immotivata. Noi ancora in quel bene ci dobbiamo entrare. Sì. No, ma voi è chiaro, è un'associazione, quello che ci chiediamo è il fatto che non sia ancora stata assegnata. Immaginiamo che sia che uno ha paura ad andare in quella casa o no? Io credo che ci sia, come dire, una sottile inquietudine, nel senso che tutti che vivono in una città, specialmente se poi si tratta di un quartiere e quindi il territorio in qualche modo si restringe, come dire, sentono il peso di una scelta di questo tipo, che si può rivelare in molti modi, si può rivelare anche con una sorta di mobbing abitativo, se vogliamo, chi se devi svolgere un'attività, o mobbing sociale, cioè nel senso che se decidi di svolgere lì un'attività, probabilmente gli abitanti del quartiere non verranno perché in qualche modo non vogliono memoria. Insomma, questo mi sembra interessante. Di memoria almeno. Certo, certo. E credo che questo è il deterrente maggiore. E naturalmente in qualche modo si cerca di evitare che quelle attività vengano svolte, ma magari non c'è bisogno nemmeno della minaccia. D'altronde questa è una delle connotazioni proprio della mafiosità, non c'è bisogno a volte di esercitarla. Alessandro, infatti è molto buono il segnale che state dando. Noi siamo partiti dallo sciopero regionale questa settimana dei lavoratori edili in Sicilia sui problemi delle aziende confiscate alla mafia. Libera gestisce molte anche attività economiche sui beni confiscati alla mafia, per esempio cose legate all'agricoltura. C'è un problema da superare da questo punto di vista? Si può rendere più efficiente la gestione dei beni? Voi da questo punto di vista avete da dire qualcosa, per esempio, al governo? Sì, sì, preciso che Libera direttamente non gestisce, sono le cooperative oppure comunque associazioni. Libera svolge un ruolo importante, credo, di filtro, dà delle informazioni e d'altronde è un po' la mamma anche dell'attuale legge. E certamente, io ho ascoltato quello che è stato detto prima del mio intervento e ovviamente sono d'accordo. C'è un problema a basilare, è un'agenzia che ha questo ruolo e questa funzione ha soltanto circa 35 dipendenti, è dislocata in varie città d'Italia e, diciamo così, queste sono le condizioni base per cui una struttura di questa importanza non riesca a lavorare. Noi crediamo che l'agenzia vada rafforzata, e tra l'altro è stata tra le nostre proposte, crediamo che vada rafforzata perché ha un ruolo fondamentale. Certamente se l'agenzia non ha risorse né economiche né umane per portare avanti questo lavoro, noi non concludiamo niente e allora sì che il simbolo del bene confiscato viene meno. Va bene, grazie mille Alessandro Cobianchi di Libera in Puglia. La notizia era questa, insomma, il bene confiscato alla mafia che dopo alcuni anni torna ad essere utile a qualcuno, però insomma il messaggio che deve passare è questo: rafforzare l'agenzia per i beni confiscati alla mafia, se no tutto quello che viene fatto dalle forze dell'ordine poi svanisce, evapora, ed è un peccato perché poi in questo momento di crisi economica abbiamo bisogno di attività economiche. Carlo Gabardini ci deve salutare perché deve andare a un matrimonio. Vi saluto tutti, salutaci, mi spiace, la sposa, vi mancherete un sacco, ci vediamo domani. A buon domani sabato. Mentre salutiamo Gabardini che sfuma così dolcemente, sentiamo Andrea da Pistoia 800 24 00 24. Prego Andrea. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. L'argomento mi sembra particolarmente interessante e vorrei, prima di dire la mia, fare i complimenti all'Associazione Libera di Don Ciotti, che fa veramente nel campo agricolo, dell'agricoltura, delle cose egregie. Però per quanto riguarda il discorso delle aziende edili confiscate, io non sono d'accordo con la posizione espressa dal rappresentante della CGIL, perché queste aziende sono una forzatura del mercato, sono aziende che hanno violato le leggi della libera concorrenza. Certo, questo anche è vero, sì. Hanno perciò... Magari non tutte, Andrea. Sono state confiscate, probabilmente dietro c'erano... Qualcuna di queste può avere beneficiato di una concorrenza sleale proprio perché era in mano alla mafia. Però non tutte, quindi bisogna capire ora, bene. Però per quello che si sente, perché io faccio il medico, sicché non sono addentro a queste cose più di tanto, però si sente dire che insomma di solito sono appalti truccati quelli su cui fluiscono queste aziende. Però Andrea, poniamoci un problema, poi la faccio chiudere, non voglio tagliarla, però proviamoci un problema: questi lavoratori di queste aziende, anche se sono fuori mercato, e cosa devono pensare? Se arriva il giudice e sequestra tutto, loro restano senza lavoro, almeno un sussidio, qualcosa, perché sennò viene voglia di rimanere in mano alla mafia. Questo e qui volevo arrivare, queste aziende, secondo me, se hanno dentro qualcosa di sano e se i dipendenti non sono per metà parenti del mafioso, è chiaro che ci si possa anche provare, però sappiamo bene per esperienza che la gestione del pubblico difficilmente riesce, e le partecipate comunali, provinciali ce lo insegnano, riesce a creare un'azienda che poi riesca a creare reddito e a mantenersi sul mercato, per cui io credo andrebbe fatto tutelato questi lavoratori e fare sì che dare loro magari una mobilità privilegiata, perché possono essere riassorbite da quelle aziende sane che avranno una fetta di mercato in più nel momento in cui esce l'azienda mafiosa che l'importante, grazie Andrea da Pistoia, l'importante è trovare delle soluzioni economiche per evitare che queste aziende sequestrate poi finiscano in un nulla di fatto, e appunto il 90%, ci diceva il sindacalista della CGIL siciliana, e poi muoiono, e forse sono un po' troppe. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, se la Vespa Special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna non ho, ho una Vespa domenica è già, e una Vespa mi porterà. Questa settimana è la settimana di ECMA, l'esposizione internazionale del ciclo del motociclo, e ci sono due notizie che mi hanno colpito. Una è questa: Colaninno, il presidente della Piaggio, ha detto stiamo creando una tecnologia rivoluzionaria per azzerare l'inquinamento, quindi annuncia un nuovo scooter rivoluzionario. Nel frattempo c'è chi va al di là degli annunci e dice che una cosa concreta la sta per fare, sta per portare in Italia la produzione del primo scooter a energia solare, si chiama Solingo, e noi abbiamo convocato il presidente del gruppo Thermal, Giorgio Giatti. Buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie per questa iniezione di fiducia, perché quanti posti di lavoro verranno fuori da questa cosa? Beh, adesso i posti di lavoro non sono tantissimi, perché dobbiamo anche, diciamo così, scommettere su una grande automazione. Comunque sì, sono 39 posti di lavoro in più. In un, parliamo di un'azienda che ha una sede principale in Asia? Sì, adesso noi abbiamo come attività principale, come gruppo Thermal, siamo attivi nella climatizzazione, sì, e siamo commercianti sostanzialmente, distributori di un marchio asiatico giapponese che è Mitsubishi Industries. Ma dal 2007 abbiamo avviato un'attività tramite il marchio YL, sì, come industriali, e quindi abbiamo avviato questa attività con un concept di ideazione, progettazione del mezzo qui in Italia, a Bologna, e realizzazione a Bologna, certo, e realizzazione in Cina. Poi recentemente si è avviata un'idea di implementazione forte, diciamo tecnologica, sì, dei mezzi, e in collaborazione con l'Università di Bologna 3 anni fa abbiamo avviato la progettazione di questo nuovo veicolo, sì, elettrico, che è un veicolo che occupa uno spazio fino adesso non esplorato, che noi abbiamo definito City Runner, e che si mette in sostanza a metà fra una bicicletta elettrica e uno scooter. Quindi un veicolo leggero, cittadino, in grado di non inquinare, non ha una velocità elevata, perché sì, 35 km all'ora, ma in grado di andare incontro a quelle nuove tendenze di zone 30, di città bassa. E poi comunque, Giatti, tanto più veloce in città non si può andare, c'è il limite di 50, quindi, e poi spesso e volentieri si va più piano perché c'è il traffico, quindi 35. Come si alimenterà questo Solingo? Cioè, questa è la cosa anche nuova, no? Interessante. Sì, allora, i due limiti che oggi nelle nostre analisi, sì, hanno ridotto lo sviluppo dei mezzi elettrici, cioè non ne hanno dato quel boom, diciamo così, paritario a quanto si parla e si racconta, sono due. Uno è la autonomia di questi mezzi, e il secondo è sempre il terrore psicologico di rimanere a piedi, in quanto non ci sono stazioni di rifornimento adeguate come infrastrutture sull'elettrico, sulla mobilità elettrica. Quindi noi abbiamo prima ideato un mezzo leggero che consentisse di poter avere un'autonomia notevole. Arriviamo a 115 km di autonomia con questo mezzo, che è veramente un record se pensiamo che i nostri principali concorrenti si muovono con 40 km di autonomia. E il secondo aspetto è che abbiamo dotato il mezzo di un'ulteriore batteria di riserva, che funge proprio da vera e propria riserva, che è alimentata da un pannello solare incorporato. Che diciamo, quindi quando si rimane a secco entra in funzione questo? Entra in funzione questo, che rimane, che mantiene, viene costantemente mantenuto carico dal pannello solare questa batteria. Però non ci siamo limitati a utilizzare il solare solo per una riserva, bensì abbiamo previsto in ogni caso che l'alimentazione solare contribuisse a circa un 10% del normale funzionamento del mezzo. Quindi il solare, diciamo, dà un'alimentazione di circa un 10% e mantiene questa riserva di carica sempre. Quindi teoricamente, se io non lo uso molto, non consumo molto, potrei anche non attaccarmi mai alla spina? Questo sì, il limite però in questo caso durante, sì, l'estate è un limite abbastanza ridotto, anche se potrebbe avere delle fasce di utilizzo, perché fino a circa 4 km al giorno, sì, questo mezzo sarebbe completamente autosufficiente. È chiaro che... Beh, un capite, limite adesso 4 km sono pochi, ma se lavorandoci lo portate, che ne so, a 10 per le città piccole, finisce che uno non lo deve mai attaccare alla spina, è una cosa incredibile. Ma scusi l'ignoranza, funziona? Lei parlava dell'estate, adesso che il sole c'è poco, funziona lo stesso questo meccanismo? Funzionerà quando sarà prodotto? Beh, adesso noi abbiamo già un prodotto prototipo effettuato, sì. Entreremo con le consegne a giugno del prima di una preserie di 200 modelli, abbiamo esposto il prototipo appunto a ECMA. Sì, chiaramente funziona lo stesso perché il solare lavora, diciamo così, tutto l'anno, perché poi c'è un funzionamento anche con intensità di luce. Ovviamente la caratteristica del solare e del fotovoltaico è che durante la maggiore insolazione i rendimenti e la quantità di energia è notevolmente superiore. Però tenga anche conto che questi mezzi hanno un uso molto più estivo che invernale, cioè la mobilità questo poi, leggera, questo poi ha a che fare con l'utilizzo che ognuno decide di fare appunto di questo scooter. Vabbè, intanto complimenti, anche perché di tecnologie se ne sentono, di nuove tecnologie positive si sente spesso parlare. Poi però spesso il problema dell'Italia è quello di passare alla produzione su scala industriale dei prodotti. Voi ci state provando con uno stabilimento anche a Bologna, quindi non sono molti dipendenti, c'è molta automazione, però 40 meglio di niente. E poi se questo scooter avrà successo, naturalmente potranno essere anche di più. In bocca al lupo Giatti, grazie per essere stato con noi, presidente della Thermal, che grazie alla Wael, avete sentito, metterà in commercio prima o poi. È ancora con noi Giatti, quando sarà in vendita? No, è andato giù, volevo chiedere questo, ma insomma queste sono informazioni che probabilmente ci sono già online in giro, visto che il prototipo è stato presentato a ECMA. Facciamo un ascoltatore prima di andare al traffico velocemente. Sentiamo Sandro da Firenze, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire rispetto alla confisca dei beni alla mafia. Sì. Volevo un attimo sinteticamente dire che io ho lavorato come operatore per 2 mesi giù a Corleone e noi abitavamo nella casa dei boss corleonesi, due più grandi boss, di Provenzano e di Totò Riina. Cioè lei ha abitato a casa di Totò Riina? Abitavamo, cioè facevamo base per andare poi a lavorare nei campi sequestrati sempre a queste famiglie. E le dico che è stata un'esperienza positiva e che lo Stato dovrebbe continuare a fare così. E vorrei fare soltanto un consiglio, vorrei dare. 20 secondi. Coloro che agiscono contro la mafia siano più uniti. Perché purtroppo in questa mia esperienza ho notato che c'è delle divergenze, delle anomalie. Va bene. Adesso qui non mi sa prolungare. Grazie per Sandro per la sua testimonianza, per il suo racconto. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. 24 reinventa il software per la media impresa. 24oresoftware.com vi presenta Strade in diretta. Buongiorno, sulla 4 Brescia-Padova si incontrano code dopo un incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Brescia. Il traffico viene deviato sulle corsie di marcia e di emergenza. Per traffico intenso si sono formate code alle porte di Milano sull'Autosole, alla barriera di Milano Sud verso la città. Altre code in entrata a Milano sulla 4, alla barriera di Milano Est e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla tangenziale est code tra Lambrate e Forlanini in direzione Bologna. Ci spostiamo in Liguria, rallentamenti dopo un incidente sulla 7 Milano-Genova tra la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Infine causa fiera, code sulla 14 Adriatica in uscita a Rimini Sud provenendo da Ancona. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading con IG. IG ti dà accesso a oltre 20 borse internazionali e la piattaforma non comporta alcun canone di utilizzo. Con il servizio esclusivo Insight avrai un filo diretto con i nostri esperti, con commenti, analisi e news sul mercato. IG ti offre un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sul trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Avete sentito? Solingo, lo scooter, il primo scooter a energia solare sarà prodotto in Italia a Bologna. Insomma, ma come siamo bravi, una volta tanto riusciamo a fare qualcosa di innovativo, di buono, una produzione nuova che darà occupazione anche in Italia, perché ripeto, siamo a volte tra i primi a scoprire nuove tecnologie e poi manchiamo di implementazione e di produzione. Questa volta ci si prova con questa iniziativa. Vitaliano ci chiama da Napoli, un ascoltatore, 800 24 00 24. Su che cosa voleva intervenire Vitaliano? Tra l'altro vi ricordo la nostra competizione tra regioni sulle buone notizie, perché di qui alla fine dell'anno poi faremo la graduatoria, la classifica delle regioni più virtuose. Vitaliano, non so se lei voleva contribuire. Sì, innanzitutto buongiorno. Io frequento un master organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Napoli Federico II, che si occupa della gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. In effetti noi più volte abbiamo cercato di interfacciarci con l'Agenzia Nazionale, però non ci ha mai preso in considerazione. Cioè lei fa un master sulla gestione dei beni confiscati e l'agenzia non vi vuole non vuole interfacciarsi con voi? Non vuole interfacciarsi con noi. Cioè interfacciarsi vuol dire che convegni, praticamente non sono mai stati presenti. Io dico, al di là di quelli che possono essere i protocolli, la burocrazia, se uno crede in certe realtà è giusto sostenerle. Ma qual è la motivazione con cui vi hanno, diciamo, chiuso la porta in faccia, per questioni di segretezza? Ma la verità, non abbiamo ricevuto nessun tipo di motivazione, sono delle semplici scuse con le quali la persona invitata diceva di essere impossibilitata a partecipare. Ma io non so non so come prenderlo quello che dice lei. Devo crederci, naturalmente, non credo che lei abbia motivo di raccontare balle, però non è una bella notizia questa, sì. Per cui voglio dire, se dovessi dire qualcosa di non vero avrebbe la possibilità di rintracciarmi, e questo come professionista che sostanzialmente si mettono a disposizione della società civile. Ma non ho capito, lei fa il master nel senso che è un docente o fa... No, io sono, poiché diciamo il discorso della gestione dei beni sequestrati e confiscati è una cosa che sento molto vicino, perché comunque sono in provincia di Napoli, parliamo insomma di Casal di Principe e i territori circostanti. Ho pensato bene di formarmi per contribuire eventualmente a sostenere delle iniziative che in qualche modo mirassero alla gestione e degli immobili e delle imprese. E il master di per sé va benissimo, sono tante le persone che lo frequentano, siamo tutti veramente soddisfatti del modo in cui il master è stato realizzato, però ci aspettavamo da parte dell'agenzia un maggiore interesse. Grazie Vitaliano, le dedichiamo, visto che lei chiama da Napoli, un'iniziativa che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando, ma che viene da Santa Maria Capua Vetere, quindi nella zona. È un'iniziativa, come ogni settimana ne segnaliamo, riciclo e musica che vanno a braccetto, sentiamo. Imparare a riciclare sin da ragazzi è l'obiettivo del comune di Santa Maria Capua Vetere, che permette ai giovani di acquistare l'ingresso ai concerti dando in cambio materiali di riuso, dalle bottiglie di plastica alle batterie scariche, come ci racconta l'assessore all'ambiente Donato Di Rienzo. Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto fortemente portare avanti noi qui a Santa Maria Capua Vetere. All'interno di questo locale, un vecchio locale in disuso del comune, dove noi reperiamo materiali che altri non usano più ma che sono in buone condizioni e quindi possono essere riusati, all'interno di questo locale, per attirare un po' di giovani e convertirli alla necessità ormai della differenziata e a fare proseliti in questo che noi chiamiamo adesso, può diventare addirittura una religione in questo momento, deve diventare una religione per tutto quello che i disastri ambientali che ci hanno circondato. E allora all'interno di questo edificio faremo dei piccoli concerti, in sintonia con un'associazione locale che si chiama Club 33 Giri, dove l'accesso è consentito solo a coloro che pagano il biglietto in materie prime, cioè se loro questa sera si paga 20 bottiglie di plastica vuoti, l'altra sera si pagherà 20 lattine di Coca-Cola piuttosto che di birra o piuttosto che di altro. Insomma, l'accesso a questi concerti sarà consentito solo se ci sarà un contributo da parte dei ragazzi in termini di materiali di scarto. Musica. Abbiamo 30 secondi, poco più, per chiudere con un ascoltatore che sentiamo comunque perché è in linea già da un po'. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, rapidamente. Sì. Mi stupisco anche che voglio parlare delle aziende confiscate alla mafia che poi non riescono poi a rientrare sul mercato. E il sindacalista suo ospite prima ha detto che solo fatto 100, solo 10 su 100 riescono a rientrare sul mercato. Secondo me è un numero anche alto, lo dico in maniera sì. provocatoria. In tutto il fatto che un'azienda che ha dietro un mafioso è un'azienda che sta sul mercato perché ha distorto le regole del mercato. Nei momenti in cui questo mafioso non c'è più la distorsione del libero mercato, della libera concorrenza, questa azienda deve sottoporsi a quelle che sono le regole, le leggi del mercato e come fa a rientrare sul mercato. Va bene Marco, ho capito, però dobbiamo porci il problema di evitare che i lavoratori di queste aziende preferiscano stare con la mafia piuttosto che stare senza lavoro. Grazie a tutti, a Giorgio De Luca, Andrea Piana, Carlo Gabardini, Peter Bescapè, anche da me Alessio Maurizio un saluto, l'augurio di una buona giornata, ci sentiamo domani alle 8:30, buon sabato. Si può fare. Cronache da un paese migliore.